Sport e motori con Massimo Di Scienza. Fondere in questo modo i due inni, quello spagnolo e quello italiano, suonati più o meno una mezz'oretta, un'ora fa quasi ormai, sul circuito di Hockenheim. Abbiamo voluto fondere i due inni per festeggiare l'81esima doppietta nella storia della Ferrari, il secondo successo stagionale di Fernando Alonso e del team di Maranello al termine di un gran premio che insomma lascerà chiaramente una scia di polemiche. Già se ne sta discutendo praticamente da quel 49esimo giro, quando è accaduto il misfatto, il fattaccio. Poi vi faremo ascoltare anche l'importante contributo sonoro relativo al momento del sorpasso di Alonso su Felipe Massa. Insomma, la vittoria di Fernando Alonso, seconda vittoria in stagione in il Gran Premio di Germania, una vittoria che mancava dal successo in Bahrain nella gara d'apertura, secondo successo in stagione che permette a Fernando Alonso di salire a quota 123 punti nella classifica mondiale, 34 lunghezze dal battistrada Hamilton. Subito un saluto ai nostri ospiti, ai nostri compagni di viaggio di Sport e Motore, i miei due Carli preferiti, così come li abbiamo ribattezzati la scorsa settimana, il direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti. E l'esperto, l'inviato di Sky Sport, Carlo Vanzini. Ciao Carlo. Ciao, buon pomeriggio. Allora, tanta carne al fuoco, come si dice in questi casi oggi, da analizzare, da sviscerare con voi. Subito però un'occhiata al film del Gran Premio, perché il Gran Premio di Hockenheim si è vivacizzato subito al via. In partenza Massa ha bruciato Alonso e Vettel, ha preso la testa della gara. Hamilton è salito al quarto posto dopo i primi pit stop, nessun cambiamento in testa. Tra il 30esimo e il 40esimo giro il distacco di Massa e Alonso su Vettel andava ad aumentare. Prima però, intorno al 20esimo giro, c'è stato un primo duello proprio tra i due ferraristi e lo spagnolo sembrava più veloce di Massa, ma non riusciva a passare. La svolta, come detto, al 49esimo giro. Arriva questo messaggio dai box. Ok, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Un messaggio per Felipe Massa: Fernando è più veloce di te, confermaci di aver capito. E Massa evidentemente aveva capito bene, perché neanche un minuto più tardi, quando il distacco era ormai sceso a meno di un secondo rispetto al compagno di squadra, in uscita da una curva, Massa di fatto lasciava passare Alonso, o comunque Alonso sorpassava Massa, si portava in testa, sarebbe rimasto al comando fino alla fine. Il Vettel provava ad avvicinarsi a Massa, ma il brasiliano resisteva al secondo posto. I numeri di questo Gran Premio di Germania: primo Alonso, secondo Massa, terzo Vettel, quarto Hamilton, quinto Button, sesto Webber, settimo Kubica, ottavo Rosberg, nono Michael Schumacher, decimo Petrov. Classifica mondiale: Hamilton 157 punti, Button 143, Webber e Vettel 136, Alonso 123, ottavo Massa a quota 85. McLaren in classifica costruttori quota 300, tondi tondi, poi Red Bull 272, 272, Ferrari 208. Tra un attimo analizzeremo tutto quello che è accaduto in pista ad Hockenheim. Prima però voglio ricordare quello che è il numero per entrare in contatto con noi, perché oggi aspettiamo le vostre opinioni al numero di SMS 349-238-6666. E oggi la domanda non può che essere questa: avete sentito, forse avete anche visto quello che è successo ad Hockenheim? La Ferrari è stata antisportiva, secondo voi, a suggerire in qualche modo il sorpasso di Alonso su Massa, o invece si è trattato di un normale evento, un normale accadimento di pista? Mi sembra questo, insomma, un po' il fulcro intorno a cui costruire la nostra discussione. E io chiederei subito al direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, da che parte stai tu, direttore? È stato un normale evento di pista, un accadimento come ne succedono tanti, oppure la Ferrari è stata antisportiva, secondo te? Ma la posizione è chiara. Secondo me la Ferrari oggi ha gettato via una cosa straordinaria, un dominio perfetto, una corsa strepitosa. L'ha fatto con una mossa volgare ed inutile. diciamo che un regolamento dice che non si può fare i giochi di squadra, è un regolamento sciocco, la Ferrari lo sa benissimo, ma questo regolamento è in atto soltanto per rispettare i tifosi che sono a casa. I modi di fare i sorpassi sono migliaia. La Ferrari, mantenendo fede a una sua storia, se ne strabatte di tutto quello che è il regolamento e ha fatto questa cosa, l'ha fatta in maniera plateale e offensiva. Il risultato è giusto, Alonso meritava di vincere, la Ferrari meritava di fare una doppietta straordinaria, perché oggi è stata veramente una squadra superiore, ma ci sono tanti modi di, diciamo, di fare le cose che tutti sanno e che tutti fanno, non solo la Ferrari, perché questa cosa non è una colpa solo della Ferrari. Diciamo che la Ferrari sembra non riuscire mai a fare in una maniera perlomeno passabile. Carlo Vanzini, un successo, un trionfo che poteva essere più limpido e che è stato un po' guastato, o invece poi alla fine di queste polemiche, come dire, verranno accantonate e resteranno poi i punti conquistati sulla pista? Ma io prendo l'altra parte, così facciamo un po' una bilancia e vediamo poi alla fine anche gli spettatori da che parte faranno pendere il piatto. Io credo che, come diceva il direttore, sono fatti normali di pista, perché i giochi di squadra li fanno tutte le scuderie, è assolutamente stupido il regolamento. È abbastanza curioso notare, e nessuno ancora l'ha notato, l'ha fatto notare, che eventualmente a decidere, a discutere su questo regolamento sarà Jean Todt, per il quale è stata fatta questa regola di vietare i giochi di squadra nel 2002, quando platealmente Barrichello diede la vittoria a Michael Schumacher, in quell'occasione con la Ferrari che stava dominando assolutamente il mondiale, quindi in quell'occasione assolutamente un gesto non giustificato. Oggi secondo me è giustificato il gioco di squadra, perché la Ferrari deve vincere con Fernando Alonso, vista quella che è la classifica, ha vinto con Fernando Alonso, certo poteva farlo in modo migliore, è stato plateale, io non sono d'accordo che è la Ferrari che se ne sbatte, io penso che oggi Massa, con il morale sotto le ruote, sotto il sedile, considerando anche che era l'anniversario del botto della passata stagione in Ungheria e la settimana prossima si va a Budapest, è Massa che l'ha voluto fare in modo plateale, poteva fare qualsiasi cosa, simulare una perdita di aderenza, l'ha fatto proprio come dire ok, ti lascio andare io. Poi Alonso ha legittimato secondo me la vittoria con i giri veloci, non dimentichiamo nel precedente tentativo, quando Alonso aveva passato Felipe Massa, Alonso ha allargato tranquillamente per prendere la traiettoria del tornante, non aspettandosi la risposta del compagno di squadra, se no Alonso lì avrebbe chiuso la traiettoria e sarebbe già stato primo. Per quello è scattato il "è ridicolo" nel team radio di Fernando Alonso. Ma perché? Perché Alonso, una volta presa in pista, in quel caso in pista la prima posizione, non si aspettava il controsorpasso da parte di Felipe Massa. Poi è chiaro che possiamo stare a discutere delle ore, saremmo stati qui a discutere delle ore se Massa non avesse ceduto la posizione. E allora sentiamo il commento di Domenicali. Prima però vi leggo, perché è appena arrivato in agenzia, il velocissimo commento di Felipe Massa rispetto a quello che è accaduto. Di fatto lui non commenta il sorpasso di Alonso, dice no, non voglio rispondere nulla, mi ha sorpassato e basta, in ogni caso lavoriamo per la squadra ed oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Sentiamo invece il responsabile del team Ferrari, Domenicali, intervistato a caldo subito dopo l'arrivo, sentiamo insomma anche come in qualche modo racchiude con una battuta quello che è successo. No, è sicuramente la cosa più importante è la prestazione della giornata di oggi, con le macchine molto competitive, questa è la cosa più importante. Ed è un riconoscimento giusto a chi ha lavorato tanto in questo periodo di grande pressione, quindi sono molto contento. Non capisco perché, sinceramente, io vedevo Felipe che aveva un po' di problemi di gomme sul tempo sul giro, di dietro Fernando era più veloce, quindi sinceramente tutte scuse. Tutte scuse, insomma, questo è il titolo che ci dà Domenicali, direttore, per rispondere alle critiche che stanno arrivando. Ha parlato il responsabile del team della Red Bull, che si è detto sconcertato di quello che è accaduto. Tutte scuse, oppure in effetti... Non è tutte scuse, il problema è che stiamo girando attorno a una cosa che è già stata detta. Ti faccio però una domanda, prima domanda. Poteva andare diversamente il Gran Premio senza questo, tra virgolette, messaggio cifrato, messaggio in codice arrivato no, a... ha falsato il risultato della gara? Sicuramente il Gran Premio poteva andare diversamente, ma questo non toglie che la Ferrari abbia fatto la mossa che doveva fare. Però è certo che se Massa non vuole dare strada, ma questo chiunque oggi in Formula 1 che gira sugli stessi tempi degli altri Valtteri Massa ha fatto quattro giri veloci di fila prima che poi li facesse Alonso. Quando i piloti girano sugli stessi tempi, passare in Formula 1 è in questo momento pressoché impossibile. Quindi poteva andare diversamente, ma doveva forse andare così. Quello che dico io non è che non abbia meritato Alonso, e dico solo che certe cose si possono fare evitando tutte queste polemiche. Poi è vero che il tempo, resteranno le statistiche, restano i punti che sono la cosa che contano, tutto è perfetto, però un poco di insomma, la squadra, se è vero che è Massa che secondo me si è comportato bene, che mi piace anche la posizione di Carlo Vanzini, è possibile, però la squadra deve fare in maniera che un pilota che ha appena riconfermato tra molti anche dubbi di tanta gente si comporti in maniera diversa. Resta il fatto che il risultato agli occhi di tutti è stata una cosa che adesso fa parlare più di questo sorpasso che di un dominio che invece è stato nettissimo e di un risultato che è stato quello giusto, e questa è una colpa. Allora, un po' di sms che stanno arrivando al 349-238-6666, ne giro uno a Carlo Vanzini, vediamo un po' insomma se lui riesce a rispondere in maniera efficace. A Daniele che ci scrive: complimenti, vera e propria formula noia, non guardavo Gran Premi da qualche anno, non guarderò più per un pezzo, non si sorpassa più. In effetti forse Daniele ha scelto proprio il Gran Premio sbagliato, visto che ci sono state altre gare nel corso della stagione decisamente più interessanti. Comunque Daniele dice: Carlo, Ferrari assolta, ma a chi piace questo tipo di farsa? Come convinciamo Daniele a continuare a seguire il mondiale? Ma guarda, oggi così un po' per fare qualcosa di diverso ho commentato sulla mia pagina di Facebook il Gran Premio con tanti amici. Alla fine sono arrivati davvero tanti messaggi e ci siamo divertiti. Poi è scattato ovviamente nel momento del sorpasso chi ha scritto vergogna, chi ha scritto no è giusto così. Io poi su chi dice che la Formula 1 è noia, insomma, posso condividere, ma fino a un certo punto, perché poi dipende anche come guardi la Formula 1 e come la vivi. Io la vivo con una passione estrema e quindi sono anche consapevole di quanto, meno forse rispetto al passato, ma quanto comunque rischiano questi ragazzi che si lanciano a queste velocità con questi bolidi straordinari. Sorpassare è diventato difficile, sarebbe così semplice magari modificare i materiali dei freni per poter spostare il punto di staccata, perché poi è quello il problema: se tentato con la aerodinamica, se tenta con le gomme, si tenta in tutti i modi, magari basterebbe intervenire sui freni, è la cosa più semplice. Per me alla fine non è stato un Gran Premio noioso, anzi, quando vedi dei piloti che che lottano per la prima posizione giro su giro, abbassando i tempi in modo straordinario, sto adesso omettendo ovviamente il fatto del sorpasso di Alonso su Massa, sì. Quando vedi Kubica che tiene la posizione su Schumacher appena uscito dai box con le gomme fredde, e Schumacher che è lì ancora caldo a casa sua in Germania, e Kubica riesce a tenere la posizione, è vero, non ci sono stati tantissimi sorpassi, ma bisogna sempre anche trovare gli elementi di discussione, gli elementi che ti fanno vivere questo sport in modo particolare. È chiaro, bisogna trovare un modo per far sì che i sorpassi ci siano e siano più evidenti. Secondo me le gare sono più movimentate, sono più divertenti, i sorpassi sono aumentati, se non sbaglio, del 190% rispetto alla passata stagione in questi primi 10 Gran Premi. Abbiamo 5 piloti che sono racchiusi praticamente in poco più di una vittoria per quanto riguarda i punti. La Formula 1 non è sempre stata questa, perché se andiamo a vedere le gare del passato abbiamo visto dei duelli straordinari. C'è un regolamento che vieta il cambio per più di una volta della traiettoria, quindi il pilota davanti, se vogliamo, non può neanche difendersi. Appena un pilota è molto aggressivo come Vettel oggi alla partenza, si discute che dovrebbe essere penalizzato. Insomma, troviamo anche una via di mezzo. Cerchiamo una via di mezzo, non devo trovarla io, deve trovare la federazione, innanzitutto scrivendo un regolamento che sia molto più chiaro. Speriamo che il nostro ascoltatore Daniele sia soddisfatto. 349-238-6666, la domanda di oggi non può che essere: Ferrari da assolvere o invece da punire in qualche modo? Vedremo se andrà così per presunta antisportività ad Hockenheim. Sport e motori. In diretta su Radio 24 fino alle 17, sono le 16:47 minuti e 50 secondi. Il direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, è ancora in nostra compagnia. Direttore, ti giro questo SMS che ci arriva da Fabio di Milano, che forse trova il colpevole di questa situazione: il famigerato rinnovo del contratto di Felipe Massa. Scrive Fabio: da quando è stato rinnovato per 2 anni il contratto, in modo così anticipato, le cose dovevano andare così. Rinnovo in cambio di aiuto ad Alonso per il Mondiale. Sei d'accordo? Sì, ma chiaramente è stato un accordo anche in questa ottica, questo non c'è dubbio. È appunto per questo che allora Massa doveva essere più obbediente e quindi evitava tutti i problemi. Oggi, ripeto, ci stiamo girando attorno al problema. Se si parla solo di questo e non della straordinaria corsa della Ferrari, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Sì. Purtroppo questa è la sintesi. Tutti, comunque gira tutti i siti in questo momento, io sto mentre vi parlo contando tutta la stampa estera, tutti. Il tema non è che oggi la Ferrari è tornata alla Ferrari. Il problema è che la Ferrari è tornata alla Ferrari nella sua accezione più negativa vista all'estero, e questo non va bene. Adesso tu e Carlo Vanzini ci spiegate perché e come ha fatto la Ferrari a recuperare il gap che la separava dalle altre scuderie nel giro di così poco tempo. Però la parola ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando in tantissimi all'800 24 00 24. Andiamo a Como, dove ci attende Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Ciao. Gli ascoltatori, buongiorno anche a lei. Senta, io rapidissimamente vorrei dire una cosa a favore e una contraria. La cosa a favore è che non è vero, secondo me, che la Ferrari in passato non ha saputo gestire queste situazioni. Per esempio, mi ricordo la fine del Mondiale 2007, quando Massa, in un modo intelligente, fece passare Raikkonen al Gran Premio del Brasile, che consentì poi a Raikkonen di vincere il campionato piloti, e venne gestita bene, secondo me, dalla squadra quella cosa lì. Secondo me invece la cosa purtroppo che sta giocando a sfavore della Ferrari, che qualcosa a livello di gestione della squadra in questi ultimi 2 anni si è perso, e si è perso e si è visto oggi nel modo in cui è stato gestito questa cosa, che era nell'ordine delle cose il sorpasso di Alonso su Massa. Però a me piacerebbe, me lo consenta poi scappo e vorrei sentire anche voi cosa ne pensate, chiedere veramente alla Ferrari che tipo di politica piloti sta facendo, perché a mio giudizio Alonso è stato scelto non solo per le qualità, ma i soldi che ha portato tramite Santander. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, vorrei la vostra opinione, vedere in Ferrari, al termine del contratto di Massa e Raikkonen, vedere piloti come Vettel e Kubica, e secondo me Kubica è il miglior pilota dei normali. Vi ringrazio tanto per la gentilezza. Chiarissimo. Grazie Luca, grazie a lei, buon proseguimento e buona domenica. Carlo Vanzini, insomma, il caustico Luca da Como critica la gestione domenicali di fatto a 360 gradi. Ma ha fatto bene a ricordare il 2007, perché lì Raikkonen prese la posizione su un Massa scatenato che avrebbe tranquillamente vinto il Gran Premio di casa in Brasile, un brasiliano che cede la vittoria. E lì la posizione Raikkonen la prese con il pit stop di Felipe Massa, inanellando un pit stop anticipato rispetto a Raikkonen, inanellando dei giri velocissimi e poi andandosi a prendere il mondiale su Hamilton. Ricordando il 2007, non dimentichiamo che la McLaren lì ha perso il mondiale in quell'anno per gli screzi tra i loro piloti, quindi in quel caso Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Quindi siamo sempre a poi guardare anche l'altro lato della gestione dei piloti. Io ribadisco il fatto, secondo me la gestione va valutata sempre alla fine, quando si fermano le macchine, si spengono i motori e si vede quello che è stato poi il risultato. Io credo che la Ferrari, per una politica che ha iniziato non domenicali, ma è stata iniziata tempo fa con Schumacher, ha scelto di avere sempre un pilota primario, un pilota più forte, nel caso Fernando Alonso. Poi è vero che ha portato comunque il contributo di Santander ha seguito Fernando Alonso, possiamo aprire tante parentesi, però sulla piazza, se andiamo a vedere, i piloti di questo calibro ce ne sono pochi. Forse si poteva tenere ancora un altro anno Raikkonen, di certo non ci sarebbe stata la coppia Alonso-Raikkonen. Poi i contratti parlano chiaro, sono dei discorsi che vengono fatti chiari con i piloti. La Ferrari da un bel po' ha deciso di avere un pilota prima guida e un secondo pilota Massa forte, come si è rivelato poi nel 2008, più forte di Raikkonen, e allora a quel punto in grado di poter diventare prima guida. Ma i discorsi sono chiari fin dal primo Gran Premio. La Ferrari quest'anno lotterà per il mondiale, cercherà di lottare per il mondiale, e fin dall'inizio doveva lottare per il mondiale con Fernando Alonso. Allora, andiamo in provincia di Lucca, salutiamo Celestino che ci ha chiamato allo 800 24 00 24. Buona domenica, Celestino. Buona domenica a voi e prego. Grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Due cose velocissime da dire. Uno, che la Ferrari ha dimostrato una ripresa tecnica enorme, una reattività fenomenale e sapere dove mettere le mani in poco tempo su una macchina complessa come il Formula 1 è una cosa magistrale. E in secondo luogo, i giochi di squadra, ammesso che ci siano, che siano giochi di squadra, i tempi parlavano chiaro. Alonso andava più veloce, sino a metà gara il più veloce praticamente è stato Massa, dopo Massa ha avuto qualcosa, sicuramente perché non teneva più i tempi che faceva. E allora la scelta era ovvia, o farli scannare e rischiare un qualcosa come Vettel e Weber, oppure far capire al pilota davanti che doveva guardarsi dietro e fare due conti. Massa li ha fatti, bisogna dire bravo a Massa, perché Massa poteva benissimo evitare che Alonso lo sorpassasse e dopo si sarebbero innescate polemiche ancora più grosse. Bravo Massa, bravo Ferrari, e vediamo in fondo all'anno cosa succede. Grazie. Grazie a lei, Celestino, buona domenica. Carlo Cavicchi, come ha fatto la Ferrari a recuperare la distanza, allora, o quasi, che la separava da Red Bull e McLaren? Secondo me la Ferrari oggi è andata molto bene, ma la Ferrari è andata molto bene anche prima. La Ferrari non ha concretizzato una macchina buona. A Monte Carlo niente volava. L'altro Gran Premi ha avuto delle volte una macchina estremamente competitiva che poi, per una serie di concause, anche il più recente Silverstone, la Ferrari andava fortissimo, non è che non andava forte, semplicemente non ha combinato nulla per una serie di situazioni che si possono attaccare a problemi di safety car, a problemi di muretto, a problemi di gestione, a problemi di errori, però la Ferrari andava già forte. Se voi ricordate, dopo il Gran Premio di Silverstone, Hamilton, che non è l'ultimo arrivato, ha detto la Ferrari va fortissimo, cioè i piloti lo vedono già. Oggi semplicemente le cose sono andate bene, anzi sono andate benissimo, se non ci fosse stata un'operazione corretta, giusta da fare, ma fatta male. Qui nessuno dice che la Ferrari non doveva far vincere Alonso, qui stiamo giocando sulle cose. La Ferrari ha fatto quello che doveva fare, si poteva fare meglio, perché oggi si sarebbe parlato di questa straordinaria prestazione della Ferrari e non da tutte le parti del pasticcio del sorpasso. Questo secondo me deve essere chiaro, se no ci giriamo attorno. La Ferrari non discute nessuno, nessuno discute il risultato e nessuno discute che dovesse vincere Alonso. Si poteva fare in un altro modo. E questa è una posizione che anche via SMS ci sta arrivando, tanti ascoltatori. Maurizio da Bolzano, praticamente direttore, utilizza le tue stesse parole. Io non vi ho fatto ancora una domanda e vi chiedo grandissima brevità. Vi aspettate qualche sanzione disciplinare a questo punto? Oppure invece il risultato della gara è intangibile? Vanzini? Carlo? Visto quello che è successo di questi ultimi tempi, Valencia, Silverstone, con decisioni arrivate con grandissimo ritardo, non mi stupirebbe niente. Sulla carta dico di no, perché comunque nel team radio non è stato detto lascia passare Alonso, è chiaro, è stato detto tra le righe, Alonso è molto più veloce di te, e poi è stato chiesto scusa a Felipe Massa, ma non c'è una frase da investigazione. Però visti i rapporti da qualche anno tra la federazione e la Ferrari, non lo so. Ricordo che c'è sempre Jean Todt adesso alla guida della federazione, per il quale è stata fatta questa regola assurda, secondo me, di vietare i giochi di squadra nel 2002 dopo Zeltweg. Direttore Cavicchi? Io dico che secondo me non succederà nulla, dico che le frasi che si possono attaccare non è tanto Alonso va più forte di te, ma hai capito bene cosa ti abbiamo detto, e quanto piuttosto la visione della telemetria, dove si vede che Massa fuori dalla curva non accelera, questo è palese. Però ripeto, non penso che capiterà nulla. Vorrei però cavare l'idea al discorso di Todt non c'entra nulla in questa decisione, perché è una decisione dei commissari sportivi, contro cui eventualmente si può fare d'appello, e sull'appello avvengono dei giudici, e alla peggio si può andare al Consiglio Mondiale. Il presidente non ha non può mettere becco. Lo vogliamo risentire, Pietro, la Corte di Regia, proprio quel frammentino che è stata la pietra dello scandalo di questo pomeriggio? Te lo chiedo proprio per chiudere il programma, che ahimè purtroppo dobbiamo chiudere qui perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Appunto ringrazio Pietro la Corte in Regia, Margherita Aina in redazione, grazie a voi per aver partecipato in tantissimi, sia via sms che al telefono, grazie ai miei amici della domenica, Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, grazie direttore, a domenica prossima. A domenica. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo. Ciao, grazie. Ci siamo dimenticati del motomondiale, ma d'altronde ci sono ancora alcune ore da qui alla gara di Laguna Seca. Avremo modo di approfondire il discorso tra 7 giorni ancora con te, Carlo, e sicuramente poi in tante altre occasioni. Grazie a tutti per averci seguito. Chiudiamo proprio con questo frammento che sentirete ancora tante tante volte, ma d'altronde l'attualità è questa. Ciao, alla prossima settimana e buona domenica ancora da Massimo Di Scienza. Ok, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Sport e motori.